Sanzione morale. La vita etica del musulmano ha la sua ragion d'essere non solo nell'impulso verso il bene, che in ogni uomo è promosso dalla fede in Allah e nel giorno del giudizio, ma anche dalla consapevolezza che egli si trova sempre in presenza di Allah, il Dio, in ogni momento e in ogni luogo. Il musulmano crede con certezza che un giorno dovrà rendere conto delle sue azioni e che da esse dipenderà la sua sorte nel giorno del giudizio. La certezza della verità dell'insegnamento divino riguardo al destino dell'uomo impone dall'interno al credente l'osservanza del codice etico dell'Islam.